Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati si parla di icone e finestre, di nuovi linguaggi e di grandi opportunità. Parliamo di memoria, non solo intesa come capacità di immagazzinare dati, ma anche come necessità emotiva per creare la storia. Indagheremo l'attimo, che può davvero fare la differenza per il futuro di due persone e con loro del mondo intero. Pur parlando di macchine, oggi sonderemo il cuore e la vita di due uomini. Microsoft si è appropriata illegalmente del monopolio del mercato attraverso Windows, proteggendo ed estendendo questo monopolio con la sottomissione delle scelte del consumatore. Il Dipartimento di Giustizia non può tollerare questo tipo di condotta. È il 14 maggio del 1998. Il governo degli Stati Uniti decide di prendere provvedimenti nei confronti di Microsoft. Il suo fondatore, Bill Gates, viene interrogato per rispondere della condotta di concorrenza sleale nei confronti dei competitors, concorrenza che ha portato alla supremazia della sua azienda nel mercato dei software e al controllo sui mercati emergenti. Did you tell people publicly that Netscape would not do fine? La deposizione di Bill Gates serve a far luce sul vertiginoso sviluppo economico della Microsoft, che in meno di 20 anni l'ha fatto diventare l'uomo più ricco d'America. Bill si deve difendere dal governo degli Stati Uniti e emotivamente non è semplice per lui, pur essendo il padre del colosso Microsoft. Le sue doti oratorie, inoltre, non sono delle migliori. Il suo atteggiamento è quello di un ragazzino cresciuto davanti a un computer. Si dondola sulla sedia mentre espone le sue ragioni. Gli occhiali, anche se non sono più quelli dalla montatura spessa dell'adolescenza, gli conferiscono comunque un'aria insicura. La sua testimonianza, al di là delle ragioni dell'accusa, non gioca a suo favore. An American judge has ruled that the Microsoft Computer Company has used its market monopoly to crush its competitors. This is truly an important victory for America's consumers and for the American economy. Il 6 novembre del 1999 arriva il verdetto. Come dice uno dei giurati, una vittoria importante per i consumatori americani e per l'economia americana. La giustizia è intervenuta a rimettere ordine. Ma come si è arrivati a questo? Ad avere nel 66% delle case americane un personal computer e l'80% di questi con il sistema operativo di Microsoft Windows. Teniamo aperta questa finestra, ci torneremo più tardi, e apriamone un'altra sulla vita di William Henry Gates III. Bill nasce a Seattle nel 1955. Il padre è un procuratore e la madre è una professoressa. Lui è un bambino iperattivo, molto curioso, ma anche molto distratto, almeno apparentemente. Sembra vivere in un suo mondo, eppure le capacità di apprendimento sono notevoli. I genitori decidono di toglierlo dalla scuola pubblica, dove Bill ha difficoltà di inserimento, e di mandarlo in un'esclusiva scuola privata di Lakeside, più adatta al suo carattere. Nel 1968 alla scuola viene donato un computer modello Teletype, col quale gli studenti possono cominciare a prendere confidenze. L'attrazione è forte, soprattutto per alcuni di loro, come ricorda il padre di Bill. Era davvero un'attrazione per lui e per alcuni altri studenti. Passavano tutto il loro tempo libero in quel piccolo laboratorio dove era posizionato il computer. Computer, per come lo intendiamo noi oggi, non è certamente il termine più adatto per descrivere quella specie di macchina da scrivere in grado di elaborare un numero decisamente minimo di operazioni. Eppure lo stimolo che gli studenti ricevono, in particolar modo Bill con l'amico Paul Allen, sarà la scintilla da cui parte tutta la storia. Apriamo però un'altra finestra a questo punto sulla storia del computer. È il 1945, quando la parola computer, che fino ad allora nella lingua inglese era servita per definire una persona in grado di computare, cioè calcolare, viene estesa alle macchine. Quell'anno Douglas Engelbart, un tecnico dei radar della Marina americana appena tornato dalla guerra, si imbatte in un articolo che parla di queste macchine in grado di fare con precisione e velocità un'enorme quantità di calcoli matematici. Non ci mette molto a pensare che le stesse macchine possono essere utilizzate anche in altro modo. La sua esperienza nei radar gli fa capire che se questi calcolatori possono trasmettere informazioni attraverso schede perforate e stampe cartacee, lo possono fare anche su uno schermo. Il suo sogno si realizza il 9 dicembre 1968, quando davanti a centinaia di scienziati e professionisti dell'informatica, per la prima volta in assoluto, descrive e utilizza dal vivo i sistemi a finestre multiple, il mouse, la videoconferenza e tutti gli altri strumenti sviluppati da lui e dal suo gruppo di ricerca. Se voi siete nel vostro ufficio e siete supportati per il lavoro da un computer con un display che vi rimanda scritte le risposte che state cercando, aiutandovi anche graficamente a trovare la soluzione, quanto può essere di utile? Quello che voglio cercare di fare oggi è mostrarvelo invece di raccontarvelo. È l'inizio di una nuova era. Le indicazioni ormai vengono impartite alle macchine non seguendo una lingua misteriosa fatta di numeri, ma un linguaggio nuovo definito BASIC, che usa parole dell'inglese corrente. Il computer comincia ad arrivare alla gente come l'invenzione che può cambiare il mondo. Sul numero di dicembre del 1972 della rivista Rolling Stone, Stuart Brand scrive: che sia preparata oppure no, i computer stanno arrivando alla gente. Questa è una buona notizia, forse la migliore dopo la psichedelia. Sulla copertina di quel numero c'è Carlos Santana che proprio quell'anno canta con Buddy Miles Changes. Da quel primo approccio al computer della fine degli anni 60, per Bill comincia a svilupparsi un nuovo interesse. A scuola è abbastanza bravo, almeno nelle materie che gli interessano. Tanto che se si tratta di avere a che fare con quella strana macchina beige in grado di elaborare automaticamente dei dati, Bill si impegna il doppio. Visto il tempo passato appresso ad essa, subito viene riconosciuto come l'esperto dei computer, come ricorda una sua compagna di classe. Avevamo dei compiti da fare sul computer, la maggior parte di noi non sapeva usarlo. Così si andava a trovare Bill nella sua stanza e lui o si metteva a spiegarti come fare oppure li faceva per te. Bill e l'amico Paul passano più tempo nella stanza dei computer che sui libri. Imparano a programmarlo, a entrare nelle zone protette da password, causando blocchi al sistema e introducendosi nei sistemi di sicurezza. Diventano così bravi che decidono di fondare la Lakeside Programmers Group, insieme ad altri compagni di scuola. Cominciano ad essere richiesti dalle aziende per studiare programmi ad hoc, come quello più semplice per la gestione paghe, o quello più innovativo per misurare il traffico stradale, la TRAFO Data, per il quale nel 72 vengono pagati $20,000. Ma Bill pensa di seguire le orme del padre e si iscrive alla facoltà di legge ad Harvard. Una fredda mattina di gennaio del 75, quando l'amico Paul Allen gli mostra il Popular Electronics, una rivista sulla quale si parla del primo kit per mini computer acquistabile per posta, Bill cambia idea. Mostravano un nuovo microcomputer e noi abbiamo pensato, caspita, noi vogliamo fare un software per questa cosa. Entrambi realizzano che il mercato dei computer personali sta per esplodere e che ci sarebbe voluto il software per quelle nuove macchine. La fotografia riprodotta su Popular Electronics, infatti, è quella di un apparecchio realizzato ad hoc, assolutamente non funzionante, per il quale passa molto tempo prima che le migliaia di pezzi ordinati vengano consegnati all'acquirente. Infatti, è venduto in kit di montaggio. Si può dire che si tratti del primo personal computer americano. Bill sente che forse il suo futuro non è nelle aule di tribunale, almeno non in qualità di avvocato. Comincia così con l'amico Paul a lavorare per scrivere un programma per quel primo nuovo microcomputer, l'Altair 8800, senza averne mai visto uno. Mi sono messo a scrivere tutto quello che avevo imparato, sperando di non fare errori, tutto nel minimo dettaglio, e alla fine ce l'ho fatta. 8 settimane di lavoro e l'Altair Basic, come verrà chiamato dopo, è pronto. Paul Allen vola in New Mexico, ad Albuquerque, alla MITS, Model Instrumentation Telemetry Systems, l'azienda che produce quel nuovo microcomputer, per mostrare il loro programma. Un'esperienza emozionante, la tensione è alta. Non hanno mai fatto una cosa del genere i due amici prima d'ora. È una vera rivoluzione, il momento che può fare la differenza. Alla fine della presentazione, Paul telefona a Bill. Mi ha chiamato e mi ha detto: «Ehi, effettivamente ha funzionato. È stato incredibile». Il presidente del MITS, Ed Roberts, rimane così impressionato da ciò che ha appena visto che fa subito ad Allen un'offerta per quel software. Inutile dire che quello è stato il primo vero trampolino per i due ragazzi. L'università per Bill ormai è solo un obbligo, i libri non gli interessano più. Ha capito che può realizzare il suo sogno. E quello che è successo con l'Altera 8800 ne è la conferma. Lui vuole seguire Paul nella nuova avventura in New Mexico. Ma il padre non è del tutto d'accordo. Avevamo una certa fiducia nel fatto che lui continuasse a studiare. Ci sembrava strano che potesse fare qualcosa nella vita senza prendere una laurea, così come l'avevamo presa noi. Comprensibile l'atteggiamento dei genitori di Bill. Anche se l'hanno sempre supportato nelle sue scelte, non è facile pensare che il futuro sia lì. Sono gli anni 70. C'è ancora molta strada da fare perché sia chiaro a tutti della portata rivoluzionaria di quella macchina. Questa nuova tecnologia non ha ancora trovato il suo posto nella società. Per qualcuno fa paura, per altri è una necessità. Qualcun altro nemmeno sa di cosa si tratti. Come testimoniano delle interviste fatte dalla TV proprio nel 1975. Excuse me, what do you think about computers? They're terrified of them. This plastic society we live in, man, it needs a scapegoat, it goes to computers. Yeah, like wild. Computers? What are they? Ma per Bill Gates e Paul Allen le idee sono molto chiare. Loro sanno benissimo cosa sono i computer e quale futuro possono avere. I viaggi in New Mexico si fanno sempre più frequenti. Le spese di aereo cominciano a essere superiori ai guadagni. Così arriva la grande decisione: fondare una società che si occupi di software e che sia vicina al suo primo vero cliente. Nel luglio del 75 nasce la Microsoft Corporation, con sede ad Albuquerque, New Mexico. Ci sono momenti nella vita di una persona in cui si sente di aver fatto la cosa giusta. Bill, dopo aver lasciato Harvard, ha proprio quella sensazione di essere nato per fare altro in un paese come l'America, dove i sogni contano. Da quel 1975 le cose cominciano a funzionare alla grande per i due amici. Stabilitisi ad Albuquerque con un loro ufficio, i clienti aumentano e il lavoro pure. Hanno bisogno di collaboratori e chiamano a unirsi al progetto alcuni dei membri della vecchia società fondata a scuola, la Lakeside Programmers Group. In fondo quell'amore per il computer è nato proprio sui banchi di scuola e ora il tempo sta dando loro ragione. Tutto succede così in fretta, sono così giovani, soprattutto Bill, e la sua faccia imberbe da eterno ragazzino con le lentiggini, gli occhiali. La sua prima segretaria, assunta da Paul, che invece ha l'aspetto più dell'uomo, forse anche perché porta la barba, quando lo vede rimane sorpresa. È passato dalla mia scrivania e mi ha detto: «Ciao». Ho chiamato subito Paul e gli ho detto: «È arrivato un ragazzino che si è messo nella stanza dei computer a lavorare come se fosse il capo». E lui mi ha detto: «Bene». Lui è Mr. Gates, il presidente. E io: «Cosa? Questo ragazzino sembra abbia 16 anni, quanti ne ha?» E lui mi ha risposto: «No, ne ha 22». Beh, 22 anni sono comunque un'età incredibile per essere già ai livelli in cui si trova Bill. Lui ha avuto un'intuizione a 17 e l'ha seguita. A 20 ha trovato il coraggio di proporsi a un cliente e l'ha preso. Adesso che gli affari cominciano a decollare, si muove seguendo l'istinto di un mercato sconosciuto, selvaggio, che ha i suoi inizi e non ha una storia. E proprio per questo deve formarsi una sua etica, un suo metodo. Intanto una cosa è certa. Bill sa che deve impegnarsi dedicando tutto il suo tempo alla neonata società. Anche agli altri è richiesta la stessa passione, la stessa dedizione. I primi anni sono i più duri, quelli del new business, dove ogni scelta è determinante. Come ricorda Paul Allen. Si fermava a programmare fino alle 6-7 di sera, poi cenava, vedeva un film e poi tornava e proseguiva fino alle 3 del mattino, alle 4 qualche volta. Ogni giorno era così. Il primo gennaio del 1979 la Microsoft, con i suoi 11 dipendenti, per la maggior parte programmatori, si trasferisce a Seattle, in un certo senso torna a casa. I tempi sono ormai maturi, il personal computer è una realtà e sul mercato negli ultimi anni sono comparse molte altre aziende che si occupano di software. Tra queste, la più celebre è la Apple, fondata da altri due pionieri, da sempre considerati concorrenti di Gates e Allen, e sono Steve Jobs e Steve Wozniak, che nel 1977 al Computer Show di Atlantic City lanciano il loro Apple II, il primo computer che si compra già montato ed è in grado di supportare una grafica a colori, un vero stimolo all'immaginazione, come ammette lo stesso Bill Gates. L'obiettivo è inventarsi qualcosa che non è solo un po' differente, ma qualcosa che è davvero nuovo e che davvero è capace di catturare l'immaginazione della gente. E il Macintosh, tra tutte le macchine che ho visto sino adesso, è l'unica che segue questi obiettivi. Eppure, la maggior parte del mercato è in mano all'azienda più grande e antica nel settore dell'informatica, la IBM, che dopo il successo dei piccoli computer lanciati dalla Apple, vuole lanciare il suo personal computer. Jack Sams, uno dei manager della IBM, viene mandato a Seattle per parlare con la Microsoft. Quando un ragazzino mi si è presentato davanti, non ho realizzato subito di chi si trattasse. Quando poi l'ho visto dietro alla sua scrivania, ho capito. Questo è Gates. IBM sta cercando un sistema operativo. Gates ha già capito che con l'avvento dei personal computer a basso costo, il software sarebbe diventato il propulsore principale della loro diffusione e che questo sarebbe accaduto soltanto facendolo pagare. A questo punto, nella storia di Bill Gates, dobbiamo aprire un'altra finestra, anche per capire come mai la IBM si rivolge a lui, all'interno della quale troviamo la vita di un altro programmatore, l'altro protagonista di oggi, che da alcuni anni in California sta sviluppando linguaggi nuovi per lo sviluppo dei sistemi. Si chiama Gary Kildall. Gary Kildall. Ma teniamo per un attimo in sospeso questa finestra. Vale la pena di approfondire il tema IBM per capire quale sia la posta in gioco. IBM, acronimo per International Business Machine, nasce a New York nel 1911 e la sua storia coincide con lo sviluppo industriale di un paese. Presente da sempre in ogni azienda con i suoi calcolatori, nel 1960 comincia a interessarsi di computer commerciali. La sua supremazia nel mercato nasce in quegli anni, in concorrenza con Univac, allora sinonimo di computer per le aziende. Univac, the giant electronic brain made only by Remington Rand, takes business statistics from magnetic tape, letters, numbers and punctuation marks, processing them through its electronic circuits at phenomenal speeds. Univac can compute payrolls electronically, then produce printed checks in a flash, over 8,000 checks an hour with this high-speed printer. Univac leads the field of electronic computing. Gli anni 70 sono anni fortunati per IBM. I suoi computer installati sono 35.000 e si può ragionevolmente dire che negli Stati Uniti il settore dei computer si articoli in due parti. Da un lato la IBM e dall'altro tutti gli altri. IBM made its personal computer. Quando ormai la fase pionieristica è finita e la gente è pronta ad accogliere il personal computer, anche The Big Blue, come viene chiamata IBM, comincia a guardarsi in giro, poiché il mercato può espandersi notevolmente. Le sue macchine, però, hanno bisogno di essere vendute con un software, un linguaggio che le faccia funzionare. Il 1980 è alle porte e i leader nella scrittura di linguaggi per computer sono due. Da una parte Bill Gates, che abbiamo già conosciuto, e dall'altra Gary Kildall, di cui parleremo dopo. Una fatale settimana di luglio del 1980, ai due si presenta la stessa opportunità. Il talento di entrambi è indiscutibile, è quello che li ha portati all'attenzione di IBM, ma la tempestività nel prendere una decisione farà la differenza. Non è un caso che quell'anno i Talking Heads escano con Once in a Lifetime e che una canzone di David Byrne, il cantante del gruppo, anni dopo venga scelta da Bill Gates come colonna sonora per un lancio importante della sua azienda. And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful... Destini incrociati. Destini incrociati è in America al seguito dell'invenzione che ha cambiato la nostra vita, il personal computer. È la metà di luglio del 1980 e l'IBM ha deciso di contattare i due leader del tempo nel campo dei software, Bill Gates e Gary Kildall. Il destino interviene ad aprire nuove finestre, soprattutto nella vita di uno dei due. Bill Gates è un giovane 25enne con grandi occhiali che coprono il suo viso da ragazzino. Ha l'aria assente come di chi vive in un mondo tutto suo, ma ha già capito benissimo come gira in questo nuovo mercato. La velocità è la vera discriminante. Pur avendo un tono di voce molto pacato, dentro di lui si agita la prima passione, quella che aveva a scuola quando passava ore e ore su quel primo computer, quella stessa che gli ha fatto scrivere il primo BASIC per l'Altera 8800 e quella che gli ha fatto lasciare Harvard per seguire il suo sogno. Un po' differente è la storia di vita di Gary Kildall, anche lui nato a Seattle. Mentre Bill abbandona l'università, Gary decide di studiare e si laurea all'Università di Washington con un dottorato in informatica nel 1972. Gli stessi anni in cui anche il giovanissimo Bill fa le sue prime esperienze. Anche in Gary la passione per queste nuove macchine è altissima, cosa che però non gli fa perdere di vista gli altri interessi, come quello per lo sport, le macchine da corsa, il volo. Pur avendo qualche anno in più di Bill, frequenta gli stessi ambienti. Sono gli anni in cui non è ancora ben chiara ai due come sarà la strada verso il loro futuro. Eppure è proprio qui che entrambi cominciano a costruire la loro storia, quella che li porterà a incontrarsi qualche anno dopo all'appuntamento col loro destino. Tom Rowlander, un amico e collaboratore di Gary, lo ricorda così ai suoi inizi. Ho incontrato Gary nel 1973 in un laboratorio di computer una sera tardi. Era un giovane ragazzo molto aperto, entusiasta della vita. Aveva con sé una valigetta, l'ha aperta, ha estratto una macchina e l'ha connessa con un teletype. È stato il primo personal computer che io abbia mai visto. Volevo sapere dove l'avesse preso, come l'avesse fatto, cosa ne volesse fare e come fare per averne uno. Gary, dopo la laurea, comincia a lavorare come consulente per la Intel per lo sviluppo di linguaggi per computer. Durante questa attività si rende conto che il floppy disk nei personal computer può sostituire il nastro magnetico o la bobina di carta sino ad allora utilizzate per le archiviazioni. Questo consente un accesso casuale agli utenti, senza dover scorrere l'intera bobina del nastro per raggiungere un dato specifico. Per fare questo, ogni file deve essere immagazzinato scomposto, dando a chi lo usa la sensazione di trovarsi di fronte a un tradizionale armadio raccoglitore da ufficio pieno di cartellette e fascicoli. È un'intuizione geniale. Da questa, nel 75, nasce il suo CPM, il Control Program for Microcomputers. Una delle tante pubblicazioni in giro in quel periodo per tenere gli hobbisti del computer informati, il Dr. Dobbs Journal of Computer, ne scrive un articolo, riportandone caratteristiche e prezzo, non proprio economico, ma chiaramente superiore alle alternative rappresentate da cassette audio, nastri di carta, eccetera. In un certo senso, il CPM è il pezzo risolutivo del puzzle per far diventare i personal computer una realtà pratica, come dimostrano le parole di un suo collega. È stato così importante quello che ha fatto Gary. È stato uno dei primi a introdurre un sistema operativo per i personal computer. Si può affermare senza dubbio che tutti gli altri sistemi operativi vengano da lui, abbiano lì le loro radici. La pubblicità che gli arriva da quella pubblicazione fa aumentare le richieste del suo CPM, tanto che nel 76 Gary decide di lasciare l'Intel per fondare con la moglie Dorothy McEwen la Digital Research, il cui prodotto principale è appunto il CPM. Nel giro di pochi anni la crescita della Digital Research è esponenziale. Il periodo è quello giusto. Quando nell'estate del 1980 l'IBM vuole immettere sul mercato il suo personal computer dotato di software, pensa ovviamente a Gary Kildall. È un'estate particolarmente calda, non solo per il clima, ma anche per quanto riguarda la rivoluzione nelle telecomunicazioni. A giugno viene lanciata ufficialmente la CNN, la Cable News Network. For the cable industry, whose pioneering spirit caused this great step forward in communications, and for those employees of Turner Broadcasting, whose total commitment to their company has brought us together today, I dedicate the news channel for America, the Cable News Network. Tutto sembra giocare a favore di chi ha grandi idee, come Gary, ma forse le idee non bastano in questo preciso momento. Sembra essere d'accordo anche Tom Rolander, uno dei suoi collaboratori. Penso che Gary non fosse un vero uomo d'affari. Lui aveva grandi idee su cosa voleva fare, cose che avrebbe fatto, cose sulle quali lavorare, come le nuove tecnologie. Questo era Gary. Gary è passione, è genio, è voglia di vivere, ma non sempre queste caratteristiche sono sufficienti per farcela nella vita. Quello stesso anno, John Lennon, che viveva di idee e di passioni, viene ucciso da un fanatico proprio per questo. E Ian Curtis, il cantante dei Joy Division, pone fine alla sua vita. Ma cosa è successo esattamente quell'estate del 1980? L'IBM ha sentito parlare di questo CPM e crede erroneamente che sia di Microsoft. Così contatta Bill Gates, che non avendo in casa quello che IBM sta cercando e soprattutto conoscendo Gary Kildall, indirizza i manager del colosso dell'informatica alla Digital Research. È qui che nasce la più grande occasione mancata nella storia dei PC. In questo mercato il tempo ha una durata differente. Una settimana equivale a mesi interi. Il mondo, con l'avvento delle nuove tecnologie, ha subito un'accelerazione e anche le decisioni da prendere al riguardo devono essere altrettanto immediate. Gary è l'uomo delle idee, ma quel giorno il destino pare giocare a suo sfavore, aprendo l'opportunità della svolta a Bill Gates, che sarà più lungimirante. Eccolo l'incrocio che sarà determinante per i nostri protagonisti. Quando i manager della IBM si presentano alla Digital Research, Gary non c'è. È impegnato a dilettarsi con il suo bimotore, inseguendo il suo hobby più grande, il volo. Per quanto non si sappia se sia vera o sia una leggenda questa storia, una cosa è certa. Con quella decisione, quel giorno, vola via anche la più grande possibilità della sua vita. Nessuno se lo dimenticherà più. Il fatto era che ad ogni intervista, ogni incontro di lavoro successivo a quel fatto, tutti chiedevano: ma sei davvero andato a volare il giorno in cui dovevi incontrare la IBM? Questo era frustrante per lui. Fra l'altro, lui era consapevole di quello che aveva fatto, orgoglioso dei suoi risultati. L'IBM a questo punto si rivolge di nuovo a Microsoft. Per Bill Gates questa è un'occasione da non perdere. Lui non ha il CPM, ma sa che Tim Patterson, il proprietario della Seattle Computers Products, ha appena scritto il QDOS, dove Q sta per Quick and Dirty, che infatti è una copia leggermente modificata del sistema operativo della Digital Research. A Bill viene un'idea. L'amico Gary ha preferito andare a volare. Davanti a lui ci sono i numeri uno, quelli che potrebbero far decollare la Microsoft definitivamente. Pur non avendo in casa quello che stanno cercando, gioca d'astuzia e accetta di firmare un contratto di fornitura. La velocità di reazione in questo caso ha fatto la differenza. Per soli $50,000 acquista da Tim Patterson il QDOS, che viene opportunamente modificato e si trasforma d'incanto nel più famoso Microsoft DOS. L'MS-DOS, destinato a diventare uno standard nell'ambito dei personal computer grazie alla potenza economica di IBM e al senso degli affari di Bill Gates. Nasce così il personal computer della IBM e nasce la fortuna della Microsoft. The very first computers seemed as big as houses and so mysterious that for most of us the computer was behind a closed door. Il 12 agosto 1981, il primo personal computer della IBM, basato sul microprocessore 8086, fa il suo ingresso trionfale sul mercato dei personal computer, con una presentazione in grande stile al Salone delle Feste del Waldorf Astoria di New York. Il modello base ha una RAM di 16K. È venduto per la modica cifra di $1,565. Il sistema operativo utilizzato, ovviamente, è il Microsoft DOS. Sono gli anni di esplosione del PC. Nel 1982, l'uomo dell'anno per il Time è appunto lui, il computer. Quando nel 1984 la Apple lancia un computer che usa un'interfaccia grafica sulla quale si clicca con un mouse, Bill Gates decide di crearne uno simile e realizza la prima versione di Windows. Dalla prima spinta avuta da IBM, la Microsoft, con un Bill Gates sempre più combattivo, decide di proseguire nella scalata del mercato. Nel 1986 la Microsoft viene quotata in borsa. L'offerta iniziale per ogni azione è di $21. Bill Gates diventa di colpo un milionario. Le versioni di Windows si susseguono fino alla versione 3.0 del 92, che rispetto alle altre ha un buon successo commerciale, permettendo a Microsoft di competere con il rivale di sempre, Apple Macintosh, sul fronte dell'interfaccia grafica. I primi anni 90 sono anche gli anni in cui Bill Gates decide di mettere alle vendite Steve Ballmer, cui affida il primo lancio pubblicitario di Windows. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. La personalità pirotecnica di Steve si combina perfettamente con la pacatezza di Bill. Sono i suoi anni, non c'è rivista che non dedichi una copertina a questo trentenne con la faccia da ragazzino che ha cambiato il mondo e che è riuscito nel suo intento, far entrare nelle case di ogni americano un personal computer. Ladies and gentlemen, welcome to the launch of Windows 95. È il software e non l'hardware che fa la differenza. Con Windows 95 Microsoft è a tutti gli effetti l'unica azienda ad avere in mano il mercato, anche se per un'ironia della sorte. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. Isn't it ironic? Destini incrociati. Oggi parliamo di occasioni mancate di lungimiranza, di incontri che cambiano la vita e di voli che possono portare lontano dall'obiettivo. Si parla di byte e di RAM, ma anche di memoria storica. Parliamo di uomini con la stessa passione, ma con un differente fiuto per gli affari. Si parla di quella volta che Gary Kildall preferì andare a volare invece di incontrare i funzionari della IBM, aprendo la strada a Bill Gates, che ormai è diventato il Bill Gates che tutti conosciamo. Il matrimonio di interesse tra il colosso dei mainframes e il nuovo gigante del software giunge al suo capolinea nel marzo 1992. Il mondo dell'informatica è scosso dall'annuncio della rottura dei rapporti commerciali tra IBM e Microsoft. È la fine di un lungo decennio, durante il quale Microsoft riesce a imporre i suoi prodotti software come standard de facto e Big Blue IBM si impone con la sua potenza economica nel mondo dei personal computer, schiacciando Apple e tutte le altre piccole aziende. Il nuovo sistema operativo Windows 95 viene lanciato sul mercato con un investimento pubblicitario di $250 milioni. Ladies and gentlemen, welcome to the launch of Windows 95. Microsoft comincia però ad entrare nel mirino dell'antitrust, soprattutto quando si affaccia sul mondo di Internet. Gli anni 90 infatti sono quelli del web e Bill non vuole rimanere indietro mettendosi a competere sfacciatamente con il rivale Netscape che, come ricorda una delle programmatrici del famoso browser, ha battuto Bill Gates sul tempo. Ogni rivista di finanza, ogni giornale parlava del fenomeno del World Wide Web e di tutte le cose che sarebbero successe grazie ad esso. Ovviamente Microsoft voleva essere parte di questo business, ma era un po' in ritardo, solo un po'. Ma essere un po' in ritardo nell'era di Internet significa molto ritardo. Proprio Bill Gates in ritardo. Proprio lui che per la sua velocità nel cogliere l'occasione quell'estate dell'80 ha fondato la sua fortuna, il suo impero. Bill non vuole arrendersi, lavora giorno e notte per realizzare il suo browser, Internet Explorer. L'astuzia dell'uomo d'affari arriva quando decide di regalarlo nel pacchetto di Windows e quindi di farlo trovare già installato nei PC, a differenza di Netscape. Inutile dire che questa trovata sbaraglia la concorrenza e di nuovo Microsoft è al primo posto. Ma nel 98 il Dipartimento di Giustizia intenta una causa alla Microsoft. Microsoft is unlawfully taking advantage of its Windows monopoly to protect and extend that monopoly and to undermine consumer choice. The Department of Justice will not tolerate that kind of conduct. La Microsoft perde. Forse a Gary Kildall quella guerra sarebbe piaciuta. Peccato che ci abbia lasciato prematuramente nel 1994. La sua vita, da quel 1980, è stata piena di altri successi, ma sempre all'ombra del colosso che aveva contribuito a far nascere. La sua carriera di programmatore e vero padre del primo sistema operativo per personal computer continua infatti come presidente della Digital Research, ma dà anche il via a una nuova azienda chiamata KnowledgeSet. E nell'85 pubblica la prima enciclopedia informatica, l'American Academic Encyclopedia. Dall'83 inoltre presenta anche uno show televisivo chiamato Computer Chronicles, che si occupa di seguire le ultime tendenze relative all'informatica e ai PC. Così lo ricorda il co-conduttore del programma in una puntata dedicata a lui. Gary ha davvero fatto la differenza. Lui era un genio, un gentleman, una rara combinazione. Era spinto da un onorevole desiderio che con le sue invenzioni si potessero estendere le capacità umane. For the Computer Chronicles, I'm Stuart Shafet. It's easy, don't let it go. It's easy, don't let it go. It's easy, don't let it go. Don't lose it. Bill Gates nel 2000 decide con la moglie Melinda di creare la Bill and Melinda Gates Foundation, un'organizzazione umanitaria privata che si occupa di combattere alcune malattie, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Dopo una vita dedicata al business, alla concorrenza, alla competitività sul mercato, anche per Bill è il momento di fermarsi. Il padre ricorda ancora la telefonata con cui viene a sapere di questa fondazione. Li ho chiamati e lui mi dice: «Ciao papà, sai, stavamo pensando, io e Melinda, di mettere i soldi dell'ultimo anno, anno e mezzo, cioè 24 miliardi di dollari, nella fondazione». Beh, è stata la mia migliore telefonata. Il 27 giugno del 2008, dopo 33 anni, Bill dà ufficialmente le dimissioni da presidente, lasciando il suo posto a Steve Ballmer, suo braccio destro ormai, per dedicarsi interamente alla filantropia. Questo cambio di direzione non convince tutti. Per molti è solo un modo per essere ancora al centro dell'attenzione e avere sempre più potere. Ma non tutti sono d'accordo, come dice una sua amica. È sempre strano per me vedere come le persone giudichino senza sapere pressoché nulla. C'è una coppia che ha deciso di dare molti soldi in beneficenza, più di chiunque altro sia venuto prima di loro. E credo che guardando indietro, fra molti anni, la gente vedrà non solo Microsoft in quanto tale, ma anche il suo contributo filantropico al mondo. Nel gennaio 2008, nel corso di una presentazione tenuta in occasione del Forum Economico Mondiale a Davos, in Svizzera, Bill Gates invoca l'inizio di una nuova era all'insegna del capitalismo creativo. Per capitalismo creativo, Bill intende un sistema in cui i progressi tecnologici compiuti dalle aziende non sono sfruttati semplicemente per la logica del profitto, ma anche per portare sviluppo e benessere soprattutto là dove ce n'è più bisogno, ossia nelle aree più povere del mondo. Il cambiamento del 17enne di Seattle è davvero totale, anche se Microsoft rimane il suo primo contributo al mondo, come ricorda lui stesso. Ho cominciato ad interessarmi di software quando avevo 17 anni. Quello è quello che ho fatto. Quello è il mio primo contributo al mondo. Ma adesso, con la fondazione e il suo nuovo impegno sociale, è facile vederlo inserito di diritto tra le persone che contribuiscono davvero a un mondo migliore. Il 28 ottobre del 2008, in occasione del suo compleanno, durante un concerto a Vancouver, l'amico Bono invita il pubblico a cantare per lui un buon compleanno. Without his missus, we just wouldn't be where we are today. It's his birthday today. Bill Gates is in the house. Chissà cosa ne avrebbe pensato Gary Kildall di questo cambio di rotta. Is it getting better? Or do you feel the same?